il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Non ci sono più tutti i sabati, non io, le mezze stagioni, e naturalmente ogni volta troverò il modo, come sempre, di confermarvelo, anche di confermarvi che per certi versi invece non cambiano le cose, ci sono ancora le mezze stagioni, insomma i paradossi, diciamo, del nostro vivere. Ma soprattutto, che cosa di tutte le notizie, di tutta questa entropia di fatti anche di questa settimana vi ha colpito? Le notizie sono moltissime, si continua a parlare di WikiLeaks, di questa bufera, tempesta sulle diplomazie internazionali. Vi sembra più gossip e pettegolezzo, oppure che siano delle rivelazioni che possano veramente poi scombinare un po' i rapporti tra gli stati a livello internazionale? E poi anche il rapporto del Censis, la politica italiana che continua a tenere banco naturalmente, no? Nel nostro paese e non solo. Cosa succederà adesso? Pausa del Parlamento fino al 14 dicembre, quando cioè si voterà la fiducia o meno al governo Berlusconi. Prima di salutare il mio opinionista estemporaneo di oggi, che cosa ci conferma questa settimana che non ci sono più le mezze stagioni? Come cambiano le cose? Bene, è stato scoperto il primo extraterrestre sulla faccia della Terra, o meglio sul fondo di un lago californiano. Esiste veramente un alieno. È un batterio che ha un metabolismo tutto suo, tutto particolare, basato sull'arsenico. Cioè, mentre finora l'arsenico era stato letale per chiunque, a parte per le vecchiette, arsenico e merletti di qualche vecchio giallo, l'arsenico, voi sapete, è una sostanza, noi rappresenta immediatamente l'associazione mentale quella di un veleno terribile. Invece questo batterio basa la sua vita, il suo metabolismo, la sua sussistenza, quindi, sull'arsenico, ed è il primo a sopravvivere in condizioni che invece per gli esseri umani e la maggior parte degli organismi terrestri sarebbero inospitali, queste condizioni, no? Quando non fatali. E cosa possiamo dire, quindi? Lo chiamano alieno, naturalmente con le pinze. Questo significa che cosa? Se si nutre di arsenico, che il clima è veramente molto avvelenato e non solo quello politico. E poi invece una cosa che ci conferma, ci vuole sempre qualcosa che ci rassicuri sulle nostre piccole certezze, il fatto che invece ci sono le mezze stagioni, che la benzina verde schizza a 1,44 euro, il gasolio a 1,33, questo è il record da maggio, quindi in realtà vedete che le cose poi vanno sempre nello stesso modo. Raffica d'aumenti, pensate, proprio adesso che ci sono il ponte, che tra poco è Natale, feste, si viaggia, chi può farlo, eccetera eccetera. Ma adesso bando a queste notizie e notizioli, andiamo poi su quelle più serie o anche più spiritose, come volete, con signori e signori Federico Rampini. Buongiorno. Buongiorno Federico. Federico è un po' distante da noi e quindi non sempre sentirete magari la mia voce e la sua risposta direttamente, proprio una attaccata all'altra, perché Federico Rampini è grande giornalista e corrispondente della Repubblica da New York. Tu sei a New York in questo momento, Federico? Sì. E poi puoi dirci che ore sono? Tanto si fa il gioco solito per dire, sono i nostri fusi. Sono le 8 del mattino. Quindi ti abbiamo svegliato a un'ora, diciamo, congrua, niente di eccezionale, no? No, io mi sono già sveglio da più di 2 ore. Da più di 2 ore, ma è proprio una tua abitudine questa? Lo è diventata da quando sono negli Stati Uniti, il lavoro impone, e quando vivevo in Cina era al contrario, dovevo fare molto, molto tardi, fino alle ore piccole della notte, per stare un po' in sintonia con il mio giornale in Italia, quindi qui invece mi devo alzare molto prima dell'alba per leggere tutta la stampa americana, fare una sintesi delle notizie della giornata, quindi sì, vita dura, vita dura. Per me è già cominciata da molto la giornata. Senti, quindi saprai raccontarci un sacco di cose. Posso chiederti a che ora vai a letto? Perché qua tutti si chiedono, ma uno come fa a fare tante cose? Quelli che arrivano al tuo livello spesso va 24 ore su 24. Io ho fatto tardi, sì, voglio dire. Ma gordi? Feste? Party? Sì, sì. Party? Hai partecipato a qualche party anche tu? No, ero a cena con degli amici. Ti fanno male alla salute, sai, party. Comunque, adesso andiamo invece sul libro di Federico Rampini, l'ultimo. Rampini, dicevo, giornalista e corrispondente della Repubblica da New York, inviato e corrispondente da varie città, è stato nella sua vita, è anche vice direttore del Sole 24 Ore, quindi gioca quasi in casa. L'ultimo libro si intitola Occidente Estremo, Federico, il sottotitolo è Il nostro futuro tra l'ascesa dell'impero cinese e il declino della potenza americana, che sono un po' i due poli, no, più sotto i riflettori negli ultimi anni, con l'ascesa incredibile della Cina e con naturalmente gli Stati Uniti, che da un po' di tempo si vedono un po' contrastati come potenza dominante, no? Federico? Sì, è così, questo libro è un po' un condensato di racconti, di ritratti, di storie, di esperienze che fanno un po' un bilancio degli ultimi 10 anni della mia vita, che ho diviso equamente fra queste due superpotenze, perché sono stato prima in California, per 4 anni a San Francisco, poi per 5 anni a Pechino, adesso da 1 anno e mezzo sono ritornato in America, stavolta a New York, e ho messo insieme una serie di racconti che illustrano la fantastica battaglia tra queste due superpotenze per definire cosa sarà il nostro 21° secolo, il nostro futuro, appunto, una battaglia dove la Cina sta prendendo alcune lunghezze di vantaggio su settori decisivi, però l'America è ancora una bella, è ancora in partita, ecco, la vedo su certi terreni, in particolare la ricerca scientifica, l'università, la produzione di cultura, di idee, di progetti, ancora l'America è un laboratorio meraviglioso, quindi è bella, è avvincente la sfida tra questi due modelli, perché sono due modelli profondamente alternativi. Senti, non so se farti una domanda pleonastica, magari invece mi sorprendi, vivi meglio negli Stati Uniti o in Cina, visto che tu hai vissuto tutte le parti? Complessivamente, come qualità della vita, vivo meglio a Manhattan e ho vissuto anche molto bene a San Francisco, per ragioni che vanno dall'aria che respiro, che è molto più pulita qui, c'è meno inquinamento. Ce n'era ancora meno a San Francisco, sul mare, sull'Oceano Pacifico. Beh, che non ha mai che Manhattan rispetto a Pechino, sembra quasi di essere, quando vado la mattina a fare jogging a Central Park, infatti sei sempre informissima rispetto all'aria che respiravo nel centro di Pechino. La vita culturale è meravigliosa, non a caso io insisto, perché sono un utente, usufruisco dell'industria culturale americana in modo appassionato, vado molto a teatro, vado molto all'opera, al concerto, nei musei, e tocco con mano nella mia esperienza personale quanto nel futuro delle nostre nazioni occidentali, ecco, nell'Occidente estremo, la cultura diventerà uno, se ci crediamo, se ci investiamo, diventerà uno dei mestieri in cui ancora possiamo dare molto al resto del mondo. Però sai che in Italia, insomma, ultimamente ci sono molte polemiche da questo punto di vista, i tagli, come la vedi da lì? Come ci vedi dal tuo punto di vista, dagli Stati Uniti, Federico? Ma guarda, questa è una domanda che mi viene spesso posta, più che comprensibile. Io ho avuto dell'Italia un'immagine molto migliore più mi allontanavo dall'Italia, nel senso, questa è l'esperienza. È una questione di nostalgia, o di presbiopia, Federico? Ma adesso sto parlando non tanto della mia personale opinione sull'Italia, quanto come viene vista dagli altri, no? Ecco, gli americani, così come peraltro i cinesi ci conoscono molto meno naturalmente degli americani, però tutte e due queste nazioni così grandi, ma anche così diverse tra di loro e così distanti dall'Italia, hanno, se facciamo per un attimo, prescindiamo dalle ultime rivelazioni di WikiLeaks su quello che pensa di noi l'ambasciata americana o il Dipartimento di Stato, l'amministrazione Obama, tutto questo è molto importante, però parlando dell'americano medio o del cinese medio, ha ancora un'immagine molto positiva dell'Italia, sa relativamente poco dei nostri gravi problemi, sa invece che l'Italia è una meravigliosa culla di arte antica, di qualità della vita, di bei paesaggi, di tradizioni culturali, hanno quindi un'immagine che ci dà un segnale su quella che deve essere la vocazione vera dell'Italia, quella su cui puntare e investire di più. Perché questa poi è un'immagine che ha delle ricadute anche sulle nostre esportazioni, cioè poi il design italiano di altissimo livello o i grandi architetti italiani che vengono chiamati a lavorare negli Stati Uniti o in Asia, da Renzo Piano alla Gaia Aulenti, o l'enogastronomia, i prodotti enogastronomia, sono anche legati a una certa immagine che in Asia o in America si ha dell'Italia. o in quanto vetrina di un certo saper fare. Federico, stavo leggendo, adesso stanno cominciando a chiamare gli ascoltatori e le ascoltatrici al numero verde che ricordo 800 24 00 24 e ricordo anche, sicuro non lo faccio mai, che la trasmissione come sempre potete riascoltarla poi sul sito di Radio 24 in podcast come si dice, e c'è anche da qualche giorno una pagina Facebook, una pagina fan dedicata alla trasmissione, quindi potete ascoltarlo lì o sulla pagina fan, come volete, insomma, vi potete sbizzarrire. Dicevo, il numero verde è 800 24 00 24. Federico Rampini, è un'agenzia di poco fa, una dichiarazione di Silvio Berlusconi da un convegno in corso a Napoli, che elenca uno dopo l'altro i punti di governo della sinistra, di quella che sarebbe il governo di una possibile sinistra, no? E tra questi dice c'è l'intenzione di tenere le frontiere spalancate per far entrare gli extracomunitari a go-go per dare presto loro il voto e cambiare così la maggioranza. È possibile secondo te che ci sia questa strategia? Non ho mai sentito dire una cosa simile, forse lui è meglio informato di me, io non seguo molto da vicino le vicende della politica italiana, ma mi sembra strano che la sinistra in Italia voglia spalancare le frontiere, non credo, e dare il voto così rapidamente agli immigrati, che gli immigrati possano addirittura cambiare gli equilibri elettorali, mi sembra una cosa un po' strana. Detto questo, invece, c'è un paese dove queste cose accadono, e sono gli Stati Uniti d'America. Cioè, nel mio libro Occidente Estremo, quando nel raccontare, nel mettere in scena, nel sceneggiare la grande sfida fra il modello cinese e il modello americano, racconto le forze dell'America, perché l'America, pur nella sua decadenza, è una magnifica decadenza quella che descrivo, ha ancora dei punti di forza, tra questi prima citavo l'università, la ricerca scientifica, l'industria culturale, ma un altro è la società multietnica. Questo paese è un paese che a me ha dato, dopo avermi dato il permesso, dico a me personalmente, il permesso di residenza, dopo aver dato a mia figlia che studia qui e che è ancora cittadina italiana peraltro, al primo anno di dottorato una borsa di studio di $100,000 per fare un progetto di ricerca sull'ambiente, e dopo 5 anni che io ho il permesso di residenza, se voglio mi dà la possibilità di diventare cittadino americano, anche se poi, di votare. Io avendo già maturato questi 5 anni, se voglio alle prossime elezioni presidenziali posso votare o per Obama o per il suo avversario. Anche lì sarebbe interessante, ma dopo ne parliamo, Federico, perché ho letto poi un tuo articolo anche sul Venerdì, mi pare della settimana scorsa, dove dicevi che insomma questa integrazione è avvenuta, ma sino a un certo punto. Il presidente americano, un nero che in realtà è un mulatto e quindi non è accettato fino in fondo dai neri perché è un mulatto e non dai bianchi perché non è un vero bianco. Però prima di tutto questo, visto che Federico Rampini ci sta parlando da New York, un po' dalla sua postazione, da quel punto di vista, io direi anche di, come sempre, di inserire anche un punto di vista extraterrestre. Riflessioni da Marte. Qui da Marte bisogna dire che si vedono, come dicevo, con maggior prospettiva, guardando col telescopio da una certa considerevole altezza, persino le tendenze, le mode che imperversano sul globo terracqueo. E badate bene, non solo quelle sul suolo italico. Ebbene, parte Rampini, avete sentito che fa jogging, l'ultima moda invalsa in realtà già da qualche tempo è quella di praticare uno sport che alla fine è davvero alla portata di tutti, che è quello del retracting, in italiano si potrebbe dire ritrattazione, ovvero dire una cosa e poi smentirla subito dopo. Non importa avere particolari muscoli per praticarlo e non ci vuole grande allenamento, si prende subito la mano. Dicevo, non soltanto in Italia, dove si annuncia una cosa per poi dire io non c'ero e se c'ero dormivo e non russavo, ma anche all'estero c'è questa moda. Nel giro di pochissimo, infatti, si può dire che un primo ministro è inconsistente e a volte assurdo, per poi immediatamente dichiarare con grande schiettezza è il nostro migliore amico. L'amico è una persona schietta come te, che non fa prediche e non ti giudica, fra lui e te divisa in due la stessa anima, però lui sa, l'amico sa, il gusto amaro della verità, ma sa nasconderla e per difenderti un vero amico anche bugiardo è. Ecco appunto, come si diceva, ma c'è chi ha per amico invece una scoria radioattiva. C'era del resto anche una canzone, no, che diceva: può darsi che io non sappia cosa dico, scegliendo te una scoria per amico. Vi ricordate questa canzone? Ebbene, il famoso oncologo Umberto Veronesi, chiamato a dirigere l'Agenzia per la Sicurezza del Nucleare, ha dichiarato che le scorie sono così sicure, ha detto proprio così, che potrei dormirci io con le scorie radioattive. Beh, insomma, tutti i gusti sono gusti. Del resto, chi con l'orsacchiotto e chi con le scorie radioattive? Buonanotte, buonanotte, fiorellino. Buonanotte tra le stelle e la stanza. Per sognarti devo averti vicino. E vicino non è ancora abbastanza. Vicine, vicine queste scorie, dicevo. Dunque, tutti i gusti, insomma, sono gusti. E mentre qualcuno in Italia da tempo chiede di levare il segreto su documenti che riguardano, per esempio, le stragi impunite, al Parlamento europeo Mario Borghezio, definito l'hooligan extraterrestre, ma giuro, qui su Marte non ho mai avuto il piacere di incontrarlo, ha proposto a Bruxelles di togliere i segreti su tutti i documenti sugli UFO in possesso degli Stati membri. Quindi una grande battaglia civile, insomma. E mentre in Italia i parlamentari, che hanno pesantemente lavorato quest'anno per ben 135 giorni e ora si apprestano a una pausa sino al 14 dicembre per poi subito passare alle meritate lunghe vacanze di Natale, dicono: c'è bisogno di una pausa. Tutto scorre. In tutto questo, dicevo, il Censis rivela, in modo più devastante persino di Wikileaks, che in Italia c'è un calo del desiderio. Dove si finirà, ci si chiede, di questo passo? Il desiderio è la cosa più importante, è l'emozione del presente, è l'essere vivi in tutto ciò che si può fare, non solo nell'amore. Il desiderio è quando inventi ogni momento, è quando ridere e parlare è una gran gioia, e questo sentimento ti salva dalla noia. Meno male che poi si torna coi piedi per terra. Paolo Corleoni dalla parte tecnica mi avvisa che siamo, cioè, nella viabilità quasi un pochino in ritardo. Voglio solo sapere il tema di Francesco da Roma. No, è caduto Francesco da Roma. E allora di Alfonso da Firenze. Spostiamoci un po' più su. Pronto, posso parlare? Certamente, solo il titolo. Dimmi qual è l'argomento, poi ne parliamo tra poco. Ecco, la chiusura del Parlamento. La chiusura del Parlamento. Posso parlarti con il tu? Certamente, io do il tu, quindi sì, diciamo, la cosa è reciproca. Senti, ma io, a me sembra molto brutto questa chiusura del Parlamento, perché la nostra è una repubblica parlamentare, o ce lo siamo dimenticati, quindi già dal punto di vista simbolico è proprio realmente qualcosa che dà i brividi, una cosa del genere. Sempre quasi la premessa per un sovvertimento delle istituzioni. E dal punto di vista pratico, dal punto di vista politico, praticamente la chiusura del Parlamento significa che delle questioni del Paese si discuterà, si negozierà, si arriverà a degli accordi fuori dal Parlamento, quindi si dà spazio a tutta una situazione torbida e incontrollabile, e quindi che se la chiusura del Parlamento non so come non abbia raccolto i commenti sfavorevoli della gran parte della stampa, dei media, dell'opposizione, dei media, dell'opposizione. Alfonso, ti ringrazio. Volevo sapere, prima di passare poi a Claudio da Bellari e agli altri ascoltatori, da Federico Rampini, cosa ne pensi? Negli Stati Uniti succede che per un po' si chiuda il Parlamento quando si deve arrivare, non so, a un punto cruciale, si dice vabbè, per ora mettiamoci in pausa, come in questo caso fino al 13 dicembre, quando ci sarà il discorso di Berlusconi, poi il 14 si vota la fiducia. Beh, negli Stati Uniti ci sono numerosi periodi di chiusura del Parlamento all'anno, non per queste ragioni però, cioè sono le stagioni di lavoro del Congresso americano sono regolate in modo da prevedere dei periodi anche abbastanza lunghi in cui i parlamentari invece tornano nei propri collegi e curano i rapporti con l'elettore. Bisogna tenere presente, è un sistema molto diverso quello americano, perché essendo un collegio uninominale il rapporto tra il parlamentare, il deputato, il senatore e i cittadini elettori del suo collegio è molto molto stretto, quindi è previsto che ci siano dei lunghi periodi di chiusura, ma non per ragioni come quella della chiusura italiana, insomma, in vista della possibile crisi parlamentare di governo nel voto del 14 dicembre. Inevitabile, prima di passare a Claudio da Bellaria, Federico Rampini, è chiederti che cosa ne pensi di queste rivelazioni appunto di Wikileaks, di Julian Assange, l'uomo più braccato del mondo, che adesso sembra stia un po' contrattando con Scotland Yard in Gran Bretagna, un arresto diciamo un po' più soft per evitare anche che lo facciano fuori prima. Sono secondo te più gossip, più come tra conoscenti quando ci si sparla alle spalle poi davanti si fa il sorriso, oppure veramente delle cose che possono creare dei grandi problemi a livello internazionale e magari anche una alta espressione, quella di Julian Assange, di libertà di informazione? Come la vedi tu? Beh, questo è un problema gigantesco, non è facile rispondere in due battute e semplificare, perché indubbiamente è stato un terremoto per la diplomazia mondiale vedersi improvvisamente privati di qualunque tipo di riservatezza, di confidenzialità, vedere esposte al sole delle comunicazioni tra le ambasciate americane e il Dipartimento di Stato che dovevano essere assolutamente interne. È una cosa su cui credo che discuteremo per molti anni, la valenza positiva, negativa. In linea di massima, uno come me che fa di mestiere il giornalista è favorevole alla trasparenza, anche perché io ho vissuto 5 anni in un regime autoritario come la Cina, dove c'è la censura tutti i giorni sulla stampa, su internet, sulla televisione. Quindi tutto sommato apprezzo anche la reazione americana, cioè c'è stato un certo equilibrio da parte dell'amministrazione Obama nel gestire questa immensa crisi di rapporti con tutti gli alleati che improvvisamente si sono visti pubblicati alla luce del sole dei giudizi a volte pesantissimi. Certamente la legge americana consente di perseguire Assange se venisse catturato qui sul territorio degli Stati Uniti d'America, verrebbe processato, però potrebbe anche difendersi. Credo che sarebbe un processo molto interessante quello di Assange, perché il primo emendamento della Costituzione americana è la legge più garantista in termini di libertà di informazione che esista al mondo. Il mestiere che fa Assange non è esattamente quello del giornalista, è un'altra cosa. Del rivelatore, di cosa possiamo, come possiamo definirlo? Sì, dell'hacker. Beh, perché lui intanto diciamo che più che andare a caccia di notizie, lui è stato il ricettacolo, il megafono di una gola profonda, forse più di una, ma una sicuramente la conosciamo, il soldato Manning, uno hacker informatico all'interno dell'esercito americano, che è riuscito a penetrare dentro questi sistemi intranet di comunicazione e ha dato via a questa specie di inondazione globale di notizie riservate. E questo poi tra l'altro ci dice anche la fragilità di questi sistemi di sicurezza. Ma passiamo a Claudio da Bellaria, al numero verde 800 24 00 24. Grazie della pazienza, Claudio, prego. Ciao Roberta. Ciao Claudio. Ci siamo sentiti l'ultima volta a giugno, all'inizio dell'estate. Caspita, è passato un po'. Siamo in pieno inverno. Ascoltarti. Grazie, reciproca. Sei grandissima. Ascolta, no, voglio dire, intanto che ascoltavo al giornalista, che sì, sono garantisti, però sai, quando c'è un presidente che non va bene o c'è qualcosa che non va, mi ammazzano. È talmente garantista, spero che sia garantista sempre. Dove? Negli Stati Uniti, dici? Beh, insomma, Kennedy contro le cose hanno ammazzato, il fratello pure, Martin Luther King anche, Malcolm X pure. Beh, un pochino di storia. È garantista che se uno va contro le sacre famiglie, le 4-5 famiglie che ci sono, il discorso in parte è vero, in parte è vero che sono passati anche tanti anni da allora, Claudio, le cose forse sono un po' cambiate. Va bene. Un po' cattivello. Ho ascoltato le ultime frasi del nostro premier, in cui diceva che il terzo polo era nato, è per questo che ho chiamato, che il terzo polo era nato perché per le ambizioni dei componenti. E poi dopo ho sentito te adesso che hai detto che la sinistra aprirebbe le frontiere a tutti. No, è una dichiarazione di Berlusconi da Napoli, sì, appunto, di poco fa. Sempre lui. Allora io volevo semplicemente dire che tutto quello che lui dice degli altri è lui, primo. E poi a me piacerebbe anche ricordargli al nostro premier che si può ingannare tutte le volte uno, si può ingannare una volta tutti, ma non si potrà mai ingannare tutte le volte tutti. E se non lo sa, siccome non so se è erudito, credo che questa frase l'ha detta Abraham Lincoln, no? Ecco, era questo che volevo dire, perché basta, perché lui non fa altro che dice delle cose, poi dopo, avendo i media, le amplifica. È un giochino ormai, si vede che è un po' con l'acqua alla gola, per dire anche quelle cose che non stanno né in cielo né in terra. Grazie Claudio. Intanto stavo guardando delle dichiarazioni invece Federico Rampini di Vendola, che tu sai è un po' un astro emergente e anche un po' di più ultimamente in Italia, che però, quindi i problemi non ci sono solo all'interno del centro-destra, molto anche all'interno del centro-sinistra. Il PD esiste, non esiste, lo si vuole trasformare in qualcosa altro, lo si vuole far fuori, ci sono dietro delle alleanze un po' strane. Per esempio Vendola denunciava in questi giorni sulle pagine del Corriere che c'è un asse all'interno del PD per fare fuori lui e Bersani, e secondo lui D'Alema e Veltroni, che apparentemente sono lontanissimi, o lo sono stati insomma ultimamente, adesso sarebbero uniti da obiettivi identici, tra i quali quello di far fuori Bersani. Tu che la vedi da lì, è vero, non ti interesserai più di tanto di politica italiana, ma io lo so che da giornalista serio come sei e internazionale queste cose appunto ti interessano, via, che pensi? Penso che è fantastico vedere come in un momento di così grave difficoltà per il governo Berlusconi e per la sua maggioranza o ex maggioranza probabilmente, la sinistra riesca ancora a dividersi e a dilaniarsi, a lacerarsi, a farsi la guerra interna. Queste guerre intestine tra i capi della sinistra sono una storia ormai un po' antica e hanno contribuito non poco alla sua marginalità. Tra l'altro sulla prima pagina di Libero oggi letterina ai traditori, primissima pagina, il titolo cubitale, sotto ci sono le 12 foto di quelli che Libero ritiene i traditori, i ribaltonisti del governo Berlusconi, con i loro indirizzi email, il loro nome e cognome, insomma tutte queste foto segnaletiche, ecco, se avete una passione per le foto segnaletiche nel caso. Giovanni da Milano, il numero verde 800 24 00 24. Buongiorno, buongiorno Giovanni. Roberto, io vorrei solamente chiedere fare una domanda al suo ospite Scarpini, Federico Rampini, sì. Rampini, che chiama da New York. Cosa sarebbe successo in Italia se il governo, qualsiasi governo, avesse detto mettiamo i controllori militari al posto di quelli civili per fronteggiare lo sciopero selvaggio? E poi un'altra cosa, sì, che mi dia almeno uno spunto, se si dovesse andare alle elezioni, visto quello che succede sia a destra che a sinistra, almeno per orientare le persone a chi andare a votare. Allora, avete pensato qual è la vostra notizia della settimana? 800 24 00 24, sempre con voi Roberta Giordano, sempre da New York, opinionista estemporaneo di oggi, Federico Rampini, giornalista, corrispondente per Repubblica da New York, corrispondente da varie città del mondo nella sua storia di giornalista, e già vice direttore, fu del Sole 24 Ore, autore di numerosi saggi, tra cui l'ultimo, questo pubblicato da Mondadori, Occidente Estremo. L'ultimo ascoltatore, e poi ci saranno Giuseppe dalla provincia di Venezia, Paola da Milano e gli altri, Giovanni chiedeva una cosa sullo sciopero dei controllori spagnoli, perché ieri Zapatero, primo ministro, aveva detto attenzione che faccio intervenire l'esercito, i controllori dell'esercito per sostituirvi, e poi dall'altra parte chiedeva un suggerimento di voto. Prima di rispondere Federico, do un aggiornamento, visto che siamo in diretta in tempo reale, sono le 14:36, di un dispaccio d'agenzia di poco fa secondo il quale, dopo la decisione del governo spagnolo di proclamare lo stato d'allerta, i controllori di volo in sciopero selvaggio da ieri pomeriggio hanno iniziato in Spagna a tornare ai posti di lavoro. Lo dicono fonti dell'ente aeronautico spagnolo che è l'AENA. Le torri di controllo sono state poste dalla notte scorsa sotto la direzione di alti ufficiali dell'aeronautica militare. Quindi nella notte questa cosa è successa, però a quanto pare insomma si è divenuti a più miti conclusioni, diciamo. Quindi Federico chiedeva a Giovanni cosa sarebbe successo se in altri paesi avessero messo a fare i controllori dei militari, e ti chiede se hai voglia anche il suggerimento di voto per eventuali prossime elezioni. Ma la sostituzione dei controllori di volo con i militari è già accaduta, in particolare c'è un precedente importantissimo qui in America, fu l'epoca Ronald Reagan, certi ascoltatori non se lo ricorderanno, ma Ronald Reagan, presidente conservatore, repubblicano, all'inizio degli anni Ottanta, di fronte a uno sciopero dei controllori di volo, li licenziò tutti addirittura, e sostituendoli con personale militare. Fu una battaglia anche simbolicamente molto importante, perché segnò una sconfitta del movimento sindacale americano e l'inizio di quella che poi è stata definita la rivoluzione neoliberista reaganiana. Quello che è singolare certamente è che lo stesso tipo di provvedimento oggi venga invece adottato o minacciato da un governo di sinistra, un primo ministro socialista europeo, quindi siamo almeno teoricamente agli antipodi rispetto a Reagan. Però questo conferma anche la durezza della crisi che ha investito la Spagna. Il piano di austerità di Zapatero è molto pesante, tutta la popolazione dovrà fare dei sacrifici, altrimenti la Spagna rischiava di essere travolta dalla sfiducia dei mercati, una crisi di insolvenza come quella della Grecia o dell'Irlanda, e di fronte ai sacrifici richiesti a tutta la popolazione, io capisco che non si può accettare che una categoria che ha un potere di veto enorme, perché controlla un'infrastruttura vitale della nazione come il trasporto aereo, possa da sola, diciamo così, bloccare certe decisioni, prendere in ostaggio i viaggiatori, i passeggeri. Quindi è una misura estrema di cui però capisco in questo momento comprensibile. Senti, alle indicazioni di voto, non credo che siamo ancora in campagna elettorale, però puoi farlo, nel senso, però io non devo nascondere nulla, nel senso che la mia storia, le cose che scrivo, che ho scritto, il mio percorso biografico è abbastanza lineare. Io ho sempre votato a sinistra, e nonostante quello che dicevamo prima sulla invereconda guerra dei leader della sinistra, voterei per il Partito Democratico in Italia come in America, anche se quello americano mi sembra un pochino più sveglio. Paola da Milano. Paola. Sì, buongiorno Roberta. Buongiorno Paola. Dunque, molto rapidamente, chiamo per tornare all'argomento della chiusura del Parlamento. Sì. Io sono indecisa se essere, come dire, mortificata o arrabbiata. C'è una situazione questa qui che mi mette in un grave imbarazzo, e ti assicuro, non dal punto di vista così della difesa del lavoro ad ogni costo o tantomeno dell'antipolitica, cioè non penso che questi sono farabutti, che questi lavorano poco, io non sono grillina. Bene, tuttavia questa cosa della chiusura così prolungata, quando noi normali cittadini, come dire, combattiamo per ottenere una giornata di lavoro in meno, insomma, un impiegato si sta chiedendo a Milano in questi giorni se può permettersi di fare il ponte lungo, probabilmente non può, lunedì deve tornare al lavoro e questo impiegato deve magari occuparsi di normali pratiche amministrative, o un magazziniere deve occuparsi di ricevere delle merci e di spedirle. Bene, e abbiamo delle persone che ci rappresentano che si permettono 10 giorni di sospensione con questo pretesto, secondo me, della della riflessione prima del fatidico 14 di dicembre. Trovo che è vergognoso, e tra l'altro mi viene anche un sentimento brutto, come se davvero questi chiudessero i battenti per fare a nostra insaputa, in modo che la stampa non ci possa riferire nulla, fare per vie private quelle cose che tutti temiamo, di acquisto di voti, di scambio di voti, di tentativo di aumentare lo stuolo dei cosiddetti traditori che passerebbero da un fronte all'altro. Paola, dimmi una cosa, tu fai il ponte lungo? Io faccio il ponte lungo essendomi portata a casa del lavoro, per cui sono molto contenta, perché farò di questi 5 giorni milanesi, come sapete, ne farò 2 di vacanza, 3 di lavoro, e mi sento molto contenta. Penso che rispetto ai miei clienti faccio le cose per bene. Dunque, e io sono una nessuno rispetto a questi signori. Paola, come se lo possono permettere? Ti auguro intanto buon ponte, e poi chiedo anche Giuseppe, ciao Paola, Giuseppe dalla provincia di Vicenza, di Venezia, scusami, tu fai il ponte lungo? sì, Roberto, anch'io vado via. Qualcuno c'è. Giuseppe, il tuo tema, non ti chiedo dove vai per questioni di privacy naturalmente, ma qual è il tuo tema di oggi? No, il mio tema era, io volevo chiedere al tuo ospite, sì, che sento che chiama dagli Stati Uniti, io c'ho mio fratello negli Stati Uniti e sento che mio fratello mi dice che anche Obama ha seri problemi di opinione pubblica. Beh, adesso, sì, ultimamente, sì, come nostro Berlusconi. E la domanda era questa, io domanda è la mia riflessione anche, non penso che Berlusconi, nonostante i suoi guai interni, personali, familiari, abbia una brutta visione degli italiani all'estero, nel senso questo, se vediamo Sarkozy, se vediamo Zapatero, tutti i premier in questo momento hanno una grande crisi di immagine dovuta al problema della congiuntura economica. Berlusconi, nonostante tutto, ha un'ottima squadra di governo, secondo il mio punto di vista, con Tremonti, con Frattini, con Brunetta, con la Gelmini e così via, e ha saputo perlomeno dare qualche risposta, non tutte le risposte, perché non le ha date tutte, però un po' di risposte le date. E allora la mia domanda al tuo ospite era, ma la visione di Berlusconi in America, ovvero quanto la Hillary Clinton ha detto che Berlusconi è il migliore alleato americano europeo, è vero o è una frase fatta? O una pezza che si mette dopo aver detto che è inconsistente e assurdo. Giuseppe, prima di ricevere la risposta competente dell'esimio Federico Rampini, volevo dire che stavo guardando, a parte in questi giorni, insomma, ci sono stati vari analisti che hanno un po' affrontato la situazione. Per esempio oggi Sergio Romano, che è stato ambasciatore per tanto tempo, uno dei più noti ambasciatori italiani, scriveva che forse, come hanno scritto altri, diciamo la politica un po' indipendente dell'Italia da un punto di vista energetico e poi nei confronti della Libia e della Russia sicuramente non fa piacere agli Stati Uniti, che vorrebbero che si seguisse una linea ben precisa, ma certamente non si può fare politica sempre solo per non, diciamo, scontentare gli Stati Uniti. Però dall'altra c'è anche questa storia rivelata da WikiLeaks di possibili interessi personali di Berlusconi e Putin insieme sulle questioni energetiche. Ieri ha fatto un ampio pezzo Rampini proprio su Repubblica. Che cosa ne pensi comunque, appunto, rispetto a quello che diceva l'ascoltatore Giuseppe, come viene visto dagli Stati Uniti? La verità, insomma, è davvero il più grande alleato? Sergio Romano dice sì, in parte non piace per come si comporta nei confronti della Russia, però dall'altra è vero che su Afghanistan e altre cose è stato più americano che non il governo Prodi. Sì, ma intanto volevo partire dall'inizio di quella domanda, cioè non c'è dubbio che tutti i leader occidentali in questo momento sono in difficoltà e in un certo senso, se uno lo inquadra dal punto di vista storico, questo è proprio il contesto che racconto nel mio libro Occidente Estremo, cioè siamo di fronte a uno spostamento secolare di rapporti di forze con il baricentro della storia che ritorna in Asia e questo è uno shock a cui noi non siamo preparati, noi occidentali, implica degli adattamenti sociali nel nostro modo di vedere il mondo, così profondi che nessuno ancora ha una risposta sicura in tasca su quello che dovremo fare noi occidentali nel XXI secolo, quale sarà il nostro mestiere come Occidente. Ma detto questo, invece, sull'opinione americana dell'Italia, bisogna distinguere. Quello che ha detto Hillary Clinton risponde alla necessità per gli Stati Uniti di preservare l'alleanza con l'Italia, che è un'alleanza importante. Non siamo certo il loro alleato più importante, ma siamo uno storico partner della NATO e gli americani ci tengono a preservare delle buone relazioni con l'Italia. Detto questo, il vero giudizio è sicuramente su Berlusconi, sul primo ministro italiano, e quello contenuto nei famosi dispacci riservati che partivano dall'ambasciata, le cui fonti poi erano in certi casi i più stretti collaboratori di Berlusconi, cioè è Gianni Letta, braccio destro di Berlusconi, che va dall'ambasciatore americano a dirgli che Berlusconi è politicamente e fisicamente indebolito dal tipo di vita che fa. Così da queste rivelazioni sembrerebbe. Ed è anche dall'entourage del primo ministro italiano che nascono quelle voci sul fatto che i rapporti con Putin non siano solo dei rapporti politici, ma che ci possa possono essere degli interessi d'affari. Ecco, i diretti interessati hanno smentito ieri, ricordo, no? Sia quelli che sarebbero nell'entourage, sia lo stesso Letta, sia lo stesso Berlusconi, ha detto assolutamente non è possibile, nego nel modo più assoluto che il mio più fido collaboratore Letta possa essere stata questa gola profonda. Comunque, leggevo adesso due altre agenzie di pochi istanti fa, e Frattini che parla, ministro degli esteri: l'Italia ha un interesse nazionale all'indipendenza e alla sicurezza energetica, su questo nessuno può decidere per nostro conto. E poi ancora dice: i rapporti personali del nostro Presidente del Consiglio aiutano l'Italia. Ma dunque sì, certo che l'indipendenza energetica è molto importante, ma in realtà la preoccupazione espressa dagli americani è che noi siamo troppo dipendenti dalla Russia, cioè che attraverso questo asse preferenziale, questo rapporto così stretto tra Berlusconi e Putin, l'Italia si leghi a un singolo fornitore di gas naturale in modo eccessivo, e quindi poi sia un paese dipendente poi dici della Russia. Vi ricordo che potete poi risentire tutte le puntate di Non ci sono più le mezze stagioni sul sito di Radio 24, oppure anche sulla pagina Facebook, la pagina fan di Non ci sono più le mezze stagioni. Dicevamo quindi Diego da Milano. Sì, buongiorno signorina. No, signorina, signor, no. No, mi viene l'orticaria se mi chiami... Beh, Diego, Roberta, sì. Allora, la chiamo soltanto per dare una piccola comunicazione statistica, sì, ed esprimere la mia costernazione per il fatto che dopo una settimana in giro per il centro Italia sto tornando a casa avendo finito di lavorare oggi stamattina alle 11 da Macerata, sono sull'autostrada in direzione Milano, e escluso il sottoscritto e una quindicina di camion, di cui la maggior parte greci che stanno venendo verso nord, l'autostrada non è intasata, comunque c'è un bel po' di traffico, e sono l'unico cretino senza gli sci. Non ti insultare così. Si vede che non sai sciare, non lo so. No, io sono bravissimo a sciare, ma dico soltanto, e poi mi parlano di crisi. Caspita, io c'è qui lo svincolo per il Brennero, c'è un bel... Vabbè, magari sono di seconda mano gli sci. Diego, ti ringrazio e devo affrettarmi, ti auguro buon viaggio, cercati un passatempo se puoi nel fine settimana, perché abbiamo ancora 4 minuti e ci devono essere sia Valeria Della Valle sia Stefano Andreoli. Ma ancora prima volevo, poi dopo chiuderà con una riflessione su questa cosa Federico Rampini, questo rapporto del Censis 44esimo che è uscito ieri. Il sunto è questo: gli italiani soffrono di un vero e proprio calo del desiderio che si manifesta in ogni aspetto della loro vita, appagati i traguardi che ci si prefiggeva in passato, quindi la casa di proprietà, che oggi è una realtà per la maggior parte delle famiglie italiane, ha la possibilità di andare in vacanza, possedere bene, ci si confronta oggi con la frenetica rincorsa a oggetti in realtà mai desiderati, come l'ultimo modello di telefonino, magari il quinto, il sesto cambiato in pochi anni. Tornare a desiderare, fa notare il Censis, è la virtù civile necessaria per riattivare una società troppo appagata ed appiattita. Direi quindi di correre verso spinoza.it, al galoppo, il sito, il blog satirico più cliccato del mondo, direi ancora forse più di Wikileaks, che non è satirico. Quindi pensate, Stefano Andreoli, che ne sei il creatore. Buongiorno caro. Buongiorno signorina, posso chiamarla? No, la prego, giovanotto, questa è quindi la foto del Censis, la tua? Va di moda. Beh, Spinoza al momento non ha gli stessi problemi di Wikileaks, non dà evidentemente ancora fastidio a nessuno. Notizie della settimana: Wikileaks fa tremare i potenti della terra. Sì. Sollievo nel PD, perché ovviamente la cosa non li riguarda assolutamente. Dopo queste dichiarazioni e questi rapporti diffusi, gli USA rassicurano Berlusconi: è il nostro migliore amico, specie adesso che non ne hanno più. Ecco, questo è praticamente la rassicurazione di Hillary Clinton. Importante avere pochi ma buoni, sì. Esatto, il fondatore di Wikileaks, Assange, è ricercato in 188 stati. Penso un po'. Due più di Bin Laden, addirittura, pensate. E Sarah Paulin, la ex governatrice dell'Alaska, dichiara: Assange è ricercato come Bin Laden. Beh, però lui è più facile da prendere, penso. Quindi possiamo stare tranquilli e al sicuro. Quindi non c'è assolutamente nessun problema per Assange. Altra notizia importante: maltempo, esondano i fiumi nell'Aquilano. Mm-hmm. Non si calcola quanti soldi abbia fatto risparmiare la mancata ricostruzione, perché in effetti hanno visto lungo, no? Ricostruendo l'Aquila, questo maltempo ha fatto meno danni di quello che ci si poteva immaginare, diciamo così. Altre spigolature, diciamo così. Padova, questa è una notizia allarmante: un consigliere leghista di Padova non vuole finanziare la maratona locale. Perché vincono sempre i neri mutande. Perché dice che i neri sono più veloci. I neri sono più veloci e questo, a ben vedere, è anche il motivo del fallimento delle ronde. I neri sono più veloci, quindi non c'è assolutamente problema. Altra notizia importante su YouPorn, il principale sito di pornografia via internet, la privacy è a rischio per gli utenti. Chi si collega a YouPorn ha, diciamo, problemi di privacy. Questo è un problema. Ora dove andremo a cercare il porno su internet? Bene, direi di censurare immediatamente Stefano Andreoli, dire queste cose in un'ora protetta. Ciao Stefano. Valeria Della Valle, guarda, perdonami, hai veramente 20 secondi, poi mi puoi picchiare dopo quando finisce la puntata. Allora bene, ti picchierò dopo. Ti propongo Wikileaks come parola, non è italiana ma ormai è entrata nella nostra vita. Niente, Wikileaks. Allora cominciamo dalla seconda parte del nome, quel leaks, no? Che cosa significa? Significa fuga di notizie, mentre la parte più curiosa è la prima, quel wiki. La parola wiki deriva dalla lingua hawaiana e significa rapida, rapido, e tra l'altro fu scelta da quello che è l'inventore del primo sito web con contenuti aperti agli utenti, che si chiama World Cunningham, che dichiarò di aver scelto questa parola quando si trovava a Honolulu e vide questa scritta wiki, che non era altro che il corrispondente del quick, veloce, e quindi poi la usò per chiamare il sito, eccetera eccetera. Insomma, vado verso la fine. Questa parola, questo aggettivo wiki, contribuisce a formare sia il famoso Wikileaks che oggi avete nominato tante volte, e sia la famosa enciclopedia, no? Quella che chiamiamo Wikipedia, all'italiana Wikipedia, o che dovrebbe essere pronunciata Wikipedia in realtà, no? Ma insomma, o Wikipedia, se la pronunciamo un po' più all'inglese, ma sì, per la botola. Sì. Per concludere, una parola wiki è una parola internazionale diffusa in tutto il mondo. Immagino, ce lo può dire Rampini, anche in Cina. Grazie Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma. Federico Rampini si sta aprendo la botola sotto la sedia e vuoi fare proprio una frase lapidaria su quella cosa che ti dicevo del Censis? Se no dobbiamo proprio salutarci, scompaio tra poco. Beh, siamo sicuramente una società per certi versi che ha già soddisfatto tutti i suoi bisogni materiali. Questa è una delle grandi differenze tra noi e le nazioni emergenti come la Cina, e questo fa sì che i nuovi bisogni siano dei bisogni immateriali. Ecco, l'importante però è non dimenticare che c'è anche un pezzo della società italiana in questo momento che ha un grande disagio sociale, grande sofferenza, non ha potere d'acquisto nemmeno per soddisfare i bisogni. E su questo dato oggettivo chiudiamo. Federico Rampini, ti ringrazio. Da New York, da Roberto Giordano, Sereni Orizzonti. A tutti.